Questo è l'ordine che fu imposto a Geremia da parte del Signore. Alzati e scendi alla casa del vasaio, e là ti farò ascoltare le mie parole. Allora io scesi alla casa del vasaio ed eccolo, stava facendo un lavoro presso il tornio. Ma il vaso che egli stava facendo con la creta si guastò tra le mani del vasaio. Quindi prese a fare un altro vaso come pareva giusto agli occhi suoi. Allora la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: forse che io non posso fare a voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come la creta nelle mani del vasaio, così siete voi nella mia mano, o casa di Israele. A volte contro una nazione o contro un regno io decreto di sradicare, di abbattere e distruggere. Ma se quella nazione alla quale io avevo parlato si ritrae dalla sua malvagità, allora io mi pento per quella sventura che avevo progettato di infliggerle. Altra volta per una nazione o per un regno io decreto di edificare e di piantare. Ma se agisce male agli occhi miei, non ascoltando la mia voce, allora io mi pento del bene con il quale avevo pensato di beneficarla. Ora dunque annunzia agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme: così dice il Signore, ecco, io sto preparando contro di voi una sventura e sto macchinando contro di voi un progetto. Ritorni ciascuno dalla sua strada malvagia, sicché possiate migliorare le vostre vie e le vostre azioni. Ma ti diranno: impossibile. Noi cammineremo secondo i nostri progetti, ognuno agirà secondo la durezza del proprio cuore malvagio. Perciò così dice il Signore: investigate tra le nazioni che ha udito cose simili, cosa orrenda ha commesso la Vergine di Israele. Scompare forse dalla rupe imponente la neve del Libano? Ovvero si estingueranno le acque dei monti che scorrono fredde? Eppure si dimenticò di me, il mio popolo. Al nulla offrirono incenso. Perciò hanno inciampato nelle loro vie, i sentieri di sempre, camminando per viottoli, per una strada non appianata, riducendo il loro paese a desolazione, a oggetto di scherno in perpetuo. Chiunque passerà per esso stupirà e scuoterà la propria testa. Qual vento orientale io li disperderò di fronte al nemico. La schiena e non la faccia mostrerò loro nel giorno del loro disastro. Ora quelli dissero: orsù, tramiamo insidie contro Geremia, perché non verrà meno l'ammaestramento al sacerdote, né il consiglio ai saggi, né la parola al profeta. Orsù, andiamo, e colpiamolo con la lingua, e non badiamo a tutte le sue parole. Bada tu a me, Signore, e ascolta la voce dei miei avversari. Si potrà forse retribuire il bene con il male? Eppure essi stanno scavando una fossa alla mia vita. Ricordati che io sto davanti a te per annunziare loro il bene, per far indietreggiare la tua ira da loro. Perciò consegna i loro figli alla fame e abbattili a fil di spada. Siano le loro donne sterili e vedove, i loro uomini siano feriti a morte, i loro giovani uccisi di spada in guerra. Si oda gridare dalle loro case quando addurrai contro di loro i ladroni all'improvviso, poiché hanno scavato una fossa per catturarmi e lacci hanno teso ai miei piedi. Ma tu, Signore, conosci tutti i loro disegni di morte contro di me. Non perdonare la loro iniquità e il loro peccato dal tuo cospetto, non cancellarlo. Siano rovinati alla tua presenza nel tempo della tua ira. Agisci contro di loro.